Il topo cambiato in ragazza da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Un bramino, che vide un topolino cader dall'ugne di un grifagno augello, lo raccolse pietoso. Io lo confesso l'avrei lasciato stare, ma forse il mondo è bello, perché non è dappertutto lo stesso. In quei paesi là si prova, per esempio, verso i topi, quel sentimento quasi di pietà che si sente da noi per un fratello. Credon che, morto un re, sen vada l'anima in qualche scarafaggio o in altra bestia che più piaccia alla sorte, donde trasse Pitagora la pia leggenda della sua filosofia. Convinto in quest'idea, volle il bramino che un mago gli trovasse un incantesimo che sapesse mandar l'anima sciolta del topolino in quel corpo medesimo che aveva posseduto un'altra volta. E il mago, flicche e flocche, ecco tosto cavarmi una donzella di 15 anni, sì graziosa e bella, che certo ancora avria per lei commesso più d'una pazzia quel figliuol di Priamo, che molto fece parlare la gente per causa d'un bel volto. A tal vista il bramino fuor di sé, amor comanda, apri la bocca, chiedi, scegli, gioiel grazioso, e forse al mondo c'è chi non ambisca ad esser tuo sposo? Poiché tu lo concedi, disse la bella, io scelgo il più potente. Il bramino si prostra riverente e, o sol, esclama, o re della natura, fa che io t'abbracci, o genero lucente. No, disse il sol, è più potente ancora codesto nugolone che mi toglie colei che mi innamora. O nugolone, o prediletto amante, grida il bramino al nugolo vagante. No, disse il nugolon, su me comanda il vento che mi spinge in ogni banda. O vento, o immenso borea, poiché potente sei, mentre che passi vola in grembo a lei. Accorre il vento e presto se ne lagna, che incontra sulla strada una montagna, e il monte alla proposta questa rimbalza subito risposta. Se questa bella io sposo, d'offender temo il topolin geloso, un animal potente che mi potrebbe traforar col dente. A sentir chiamare il topo si riscosse la donzella, e la bella poco dopo per suo sposo lo pigliò. Voi gridate, un topo, oibò, fa l'amore, sì signore, questi scherzi traditori. L'acqua, sente del monte onde deriva, vuol dimostrar la favola, ma forse con sofismi arzigogola sul tema. Certo, uno sposo assai migliore del sole è facile trovar, ma similmente da una pulce direi vinto un gigante, perché morso da lei. Su questo passo vinto è il topo del gatto, e vinto il gatto dal cane, e il can dal lupo, e via di corsa avria potuto il favolista antico per questo immenso circolo salire ancora al sol e renderlo marito. Poiché ci siamo, ragioniamo di questa strana dottrina che metempsicosi chiamano i dotti. Il mio bramin vi pare che abbia provato il trasmigrar dell'anima col suo strano incantesimo? Non credo, e lui ritorco l'argomento istesso. Questa dottrina vuol che l'uomo e il topo e il cane e il gatto attingano la vita ad una fonte comune. Or dunque uguale è l'onda di codesta umana vita, sol che, operando in varie membra, in alto, l'uno si eleva col valor dell'ali e l'altro sibilando in terra striscia. Tutto pesato e bilanciato, io dico, che l'anima dei topi e delle belle son diverse fra loro. Ognun riviene a quel destin che sta scolpito in cielo e non val Belzebù. Magia non vale che possa al tuo destin torcere il corso. Fine della favola, il topo cambiato in ragazza. Questa registrazione è di dominio pubblico.